quindi la popolazione viveva questi ambienti. E immaginiamoci, una l'Italia è così, l'Appennino è così, è un popolo di montanari e di boscaioli. Oggi al bar, quello con lo zaino, c'era una signora molto anziana, non di 150 anni, ma che avvicinava, che vedendomi con lo zaino ha proprio commentato in abuso di stretto, ma senza giudizio, come constatazione. E adesso noi andiamo in montagna per sport, ma quando lavoro, cioè quando esatto. Lavoro era veramente, trasmetteva veramente questo, no? Il percorrere, il camminare, era un via vai. Era un lavoro. Lo racconto così, no? Anche i miei nonni, sono abruzzesi da là. C'era un via vai di persone, c'erano i posti dove potevi mangiare, bere, c'erano i pastori, c'erano chi ti faceva il formaggio. Il commercio camminava sui muli e sulle gambe. E tutto veniva percorso attraverso il bosco. Dico un'ultima cosa sempre, diciamo, e infatti questi adesso sono ormai fustaglie, ma sono tutti vecchi cedui. Cioè, quindi questi 70 anni fa erano boschi cedui che... Poi il cedro si è spostato più in basso, insomma la legna di faggio è buona, ma quella di quercia è apprezzata molto di più e così via. Vabbè, e c'è stato anche meno popolazione, quindi meno uso della legna perché è arrivato il gas, eccetera. E quindi questi boschi sono stati convertiti, si dice dal punto di vista gestionale, all'alto fusto. Quindi sostanzialmente lo si può fare lasciandoli evolvere, diciamo, da soli, perché poi piano piano ovviamente, diciamo, le ceppaglie perdono di efficacia, oppure facendo degli interventi di diradamento, per dire, togliendo, qui vedete tutte piante singole, ma 60-70 anni fa queste erano tutte ceppaglie con diradamento.